Intesa San Paolo, Official Global Banking Partner di Expo Milano 2015. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, buona estate a chi continua le vacanze, buon rientro a chi ha ricominciato. Benvenuti a tutti dopo la pausa di programmazione estiva qui a Radio 24. Beh, devo dire, abbiamo passato un mese di agosto turbolento, quello che stiamo archiviando è un mese, un mese complicato. E allora, ricominciando, vorrei farvi una semplice carrellata per capire dove siamo, in modo da mettere un po' le cose in prospettiva anche per le prossime trasmissioni, capire dove siamo sul piano politico internazionale, su quello economico, su quello di politica interna. E direi adesso vorrei proprio partire dalla politica interna, dallo scontro per le primarie e dal primo fenomeno estivo che ha scompaginato strategie elettorali, atteggiamenti politici, modi di presentarsi all'elettorato. Il fenomeno, l'avrete capito, è Donald Trump. Sentiamo. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs and disgusting animals. Your Twitter account only is Rosie several... O'Donnell. Ecco, ho voluto scegliere questa sequenza perché secondo me è molto significativa per capire il personaggio Trump e perché anche vorrei spiegarvi un po' l'altro personaggio, Megyn Kelly. Alcuni di voi avranno seguito il primo dibattito elettorale fra i repubblicani, quello del 6 agosto gestito dalla Fox News, e questa domanda molto aggressiva di Megyn Kelly, che è una donna affascinante, molto bella, un'americana bionda, però coi denti aguzzi, diciamo. E quando ha fatto la prima domanda a Donald Trump, gli ha ricordato il modo in cui definiva e trattava le donne, chiamandole dei maiali, chiamandole dei minus abens e quanto di peggio si può immaginare. A quel punto, come avete ascoltato, Trump, senza perdere un secondo, ha risposto dicendo: beh, ma io veramente l'ho fatto riferendomi a Rosie O'Donnell. Ecco, la sala è esplosa in una grande risata, perché Rosie O'Donnell è una donna, diciamo, piuttosto voluminosa, una democratica accanita che fa politica televisiva con la stessa aggressività con cui la fanno coloro che diciamo sono della destra estrema. È molto aggressiva, usa termini molto forti e molto violenti. Questa dinamica è importante perché? Perché immaginate, Donald Trump si confronta con Megyn Kelly. Megyn Kelly è una grande star della televisione americana, ma è anche cattivissima. È difficile che qualcuno riesca a uscire dalle sue grinfie. Ebbene, Trump ci è riuscito. Ha messo in imbarazzo e in difficoltà Megyn Kelly. Il giorno dopo, lo sappiamo, ci sono state quelle battute acide che avrebbero distrutto un altro candidato, in cui diceva Megyn Kelly sprizzava sangue dagli occhi e da altre parti, e molti hanno interpretato che si riferisse alle mestruazioni, dunque un attacco molto duro alle donne. Eppure Trump si è salvato anche da questo commento, anzi sono stati proprio questi commenti così diretti ad aver raccolto un grande entusiasmo da parte di una certa base politica del Partito Repubblicano e anche non del Partito Repubblicano. Passiamo a un altro grande evento che ha definito l'agosto del 2015, cioè la crisi cinese e il crollo delle borse internazionali e la notizia della svalutazione dello yuan l'11 agosto appunto del 2015. Sentiamo. China trying to make it even easier for some Chinese consumers to buy stocks on margin. That is borrowing money to buy stocks. That is very risky. Margin debt may have been one of the big reasons why China's stocks surged in the first place, despite the economy slowing down. Beh, dunque io vorrei cominciare con una premessa. Che la Cina fosse in difficoltà lo si diceva da parecchio tempo. Però diciamo che il mercato era abbastanza tranquillo, si immaginava che la leadership cinese, che ha un fortissimo controllo sull'economia, sulle banche, che è in grado di mettere liquidità quasi in modo illimitato per mantenere una certa stabilità di borsa e per difendere il sistema bancario, ecco, si pensava che avrebbe continuato a gestire la situazione. Invece questo 11 d'agosto c'è stata la notizia di una svalutazione della moneta, quindi di un distacco dal PEG, dal rapporto di parità col dollaro. Ecco, questo è stato interpretato, questo segnale è stato interpretato come un abbandono da parte dell'autorità. Ecco, questa crisi secondo me non è assolutamente paragonabile alla crisi o al pre-crisi del 2008, 2009, 2007, 2009, diciamo, quando ci fu la grande crisi finanziaria internazionale. Si tratta di un aggiustamento perché la Cina non è stata in grado di fare questo atterraggio morbido da un tasso di crescita molto elevato a un tasso di crescita più contenuto. Non è stata in grado di modificare la sua economia portandola più verso i consumi interni piuttosto che dipendente molto dalle esportazioni. Ladies and gentlemen, please rise for the raising of the flag and the national anthem of the United States. Quadro internazionale, abbiamo avuto un quadro internazionale convulso perché c'è stato un forte dibattito qui in America per l'accordo nucleare sull'Iran, ci sono una gran quantità di esperti politici, l'opinione pubblica in maggioranza è contraria a questo accordo, che invece è un accordo che sul piano politico è molto importante ed è importante portarlo in avanti perché potrebbe davvero chiudere una situazione di impasse che dura da una trentina d'anni e che finora non ha aiutato nessuno. È un appuntamento importante questo sul voto iraniano, perché ci sarà un voto in congresso per approvare o respingere l'accordo siglato dal presidente Barack Obama. Ci sono tensioni con la Russia, tensioni con la Russia perché la situazione in Ucraina continua a essere difficile e ci sono una gran quantità di altri calderoni. Abbiamo visto quello che è successo in Medio Oriente, il dramma degli immigrati, potrei continuare, ma certamente un momento chiave, simbolico, è stato quello che abbiamo testimoniato il 14 agosto, quando, come vi ho fatto ricordare dall'audio iniziale di questo segmento, quando è riaperta l'ambasciata americana a Cuba. Ecco, è stata una svolta storica, è stata una svolta davvero storica. I tre Marines che avevano ammainato la bandiera sono stati quelli che l'hanno di nuovo innalzata. Speriamo che anche su questo fronte, che non vi nascondo, ha sollevato molte polemiche anche qui negli Stati Uniti, soprattutto fra i repubblicani, soprattutto fra i rifugiati cubani, speriamo che abbia lo sviluppo positivo che tutti ci auguriamo. Per finire, guardando in avanti, abbiamo la visita del Papa. Papa Francesco passerà da Cuba prima e poi da Cuba verrà negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti arriverà intorno al 23 di settembre, il 24 avrà l'incontro con Barack Obama, poi parlerà al Congresso in una seduta plenaria, un discorso storico perché è la prima volta che un Papa parla al Congresso, poi a New York una messa, una visita alle Nazioni Unite e così via, così via. Dunque abbiamo un calendario fitto davanti a noi, ne parleremo più nel dettaglio nei prossimi giorni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Direi abbiamo parlato molto di Donald Trump, un personaggio aggressivo, un personaggio che è in grado di arpionare l'avversario e di ferirlo pubblicamente. Dunque mi sembrava come canzone più appropriata Mack the Knife di Bobby Darin. Se ascoltate bene le parole riconoscerete quando Darin dice che questo pesce cane Mack the Knife passeggia per le strade di questo quartiere con questi denti bianchi e affilati e quando morde spillano gocce rosse di sangue. Bobby Darin, Mack the Knife. Ooh. The shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with its teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. And someone sneaking round the corner, could that someone be Mac the Knife? Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015, vi ha presentato America 24.